scritto sui denti. Carissimi amici, bentornati a questo quarto episodio di questa estemporanea estiva, insomma, sui film brutti. E mentre che con Guardi, insomma, cercavamo con Gualdi, anzi no, Guardi, però guardare, capito? Quindi intanto ciao Marco. Ciao, benvenuto. E mentre cercavamo il catalogo delle cose brutte da vedere, vi assicuro, ragazzi, che... per un attimo ho pensato che dicessi il cadavere, che più o meno è uguale. Il cadavere, il catalogo, cioè, dei film brutti è come cercare un cadavere. Sì. Non lo puoi trovare, e se lo trovi sai che puzza. Quindi diciamo che c'è questa cosa che veramente, cioè, secondo me ci potremmo fare tutto il prossimo inverno con le cose brutte da vedere, però. Questa è una cosa che tu fai in un periodo ristretto dell'anno, perché poi noi poi andiamo avanti tutto l'anno a guardare queste cose che ti rubano l'anima. Però potremmo fare la versione natalizia di queste cose. Potremmo film fare, brutti, sì, di esatto. Natale. E mentre che vedevamo il film scorso, quello di cui abbiamo parlato la puntata scorsa, quindi l'astronave fantasma, dicevamo sempre, ma qui bisognerebbe registrare in tempo reale la reaction, sì, ma abbiamo capito che... Però magari per Natale ci organizziamo in qualche modo, ci riproviamo, dai, con Twitch ci riproviamo, invertiamo, pitchiamo, vediamo, insomma, qualcosa ce lo inventiamo. Mentre invece questa volta, però prima di passare ai tre interventi di questa sera, quello che vorrei farvi capire è come è nata l'idea. L'idea è quella appunto dei film brutti, però... Non è così facile determinare, Gualdi, cos'è un film brutto, perché c'è pure brutto e brutto, non è detto che le cose sono brutte allo stesso modo. Allora, il bello e brutto hanno una loro generica soggettività. Diciamo, no, oggettività, perché oggettività. Quello che è bello è bello, quello che è brutto generalmente. Poi ci sono delle parti soggettive, per cui alcune cose che per te sono belle, per me sono brutte, per dire, insomma, cioè un film può essere anche impeccabile tecnicamente, però essere un brutto film. Oppure essere un film che magari tecnicamente non è un granché, ma c'è una bella storia, dice, beh, tutto sommato comunque è un bel film. Una buona regia e viene fuori una cosa bella, cioè, tipo, che ne so, i film degli anni 70, tipo, che ne so, Fuga da New York. Cioè, oggi è un cult, cioè tu magari lo puoi neanche dire che quello è un film brutto, però non puoi dire che non sia a suo modo un capolavoro. Assolutamente, insomma, cioè, quello, ci sono tanti altri film che poi, oppure vuoi dire, che so, Shining, che poi dire che è brutto Shining, può non piacerti magari, perché magari non ti piace il genere, però vuoi dire che è brutto, insomma. Sì, no, Shining secondo me è difficile, proprio non ti deve piacere il genere in qualche maniera, anche se definirlo un genere, cioè, è pure difficile. Però, che so, Easy Rider, no? Cioè, tutte quelle tutta quella serie dei film, anche di fantascienza, quei B-movie che comunque sono fatti con, cioè, La Casa, per dirti, no? La Casa. Cioè, tu, quelle robe anche horror molto di genere che facevano schifo, tra virgolette, perché erano girati col culo, però poi alla fine... Quando ho detto de genere, ho detto giusto, tutto attaccato però. De genere. Esatto. Beh, io comunque prima che chiudiamo vorrei fare un accenno, anche se ne abbiamo già parlato in altre volte, a Fantasma, perché comunque è un film che per basta, me... Fantasma, hai rotto, no, il cazzo. No. Andiamo a vedere, a sentire le cose, dai. Ok, comunque, diciamo... Cioè, brutto è brutto, quindi concludendo un po' il discorso, però secondo te qual è proprio il film brutto, cioè i film brutti, proprio quelli che tu dici proprio, wow, questi li guardo solo perché lo domo fa, insomma. Allora, in realtà l'unico allora, un film brutto, per dirti, è Astronauts, quello che secondo me è l'esempio del film brutto, che quello è noioso, va oltre, è sì. Noioso, non c'ha un senso, non dice un cazzo, cioè proprio è fatto male, quindi non puoi salvare niente. Un film brutto è che tu è qualcosa che non riesci a salvare, cioè non c'è nulla che tipo di, però tutto sommato quel due minuti, cioè tre minuti si possa, no, è un film che tu bruceresti, per esempio, ecco, La Spada a Tre Lame, il famoso Spada a Tre Lame, esatto. Quello è sicuramente un film brutto perché io non me lo ricordo, cioè l'ho visto tempo fa, ma non mi ricordo un cazzo, non mi ricordo la trama. Allora zero. Quello è un film brutto. Ed era un film che io volevo rivedere perché, questo l'ho visto da bambino, voglio perché rivederlo. Perché me lo volevo rivedere a me. Te lo fa vedere a te. E perché io ero convinto che fosse una zozzeria, ma non mi ricordavo così zozzo. e non me lo ricordo. Quindi l'ho rimosso. Se l'ho rimosso, significa che è un film brutto. Più brutto di Creators of the Past. Perché Creators of the Past, cioè, me lo ricordo per quanto è brutto, insomma. Quindi, beh, anche l'hai visto pure più recentemente. No, l'ho visto più recentemente la spada tra lame, credo. O comunque stiamo no, là. No, non credo, no. Più o meno sì. Boh, sai che no. Io mi ricordo che l'abbiamo visto un paio d'anni fa, 2 o 3 anni fa. Ma credo se passa. Comunque, cioè, però qui ritorno. Io non me lo ricordo, manco io me lo ricordo. Però l'immagine che mi è rimasta impressa è che è uno di quei film volutamente brutti. Cioè, perché ci sono dei film che sono proprio brutti, tipo Astronauts, come dici te, che è un film che non solo è brutto, ma è fatto proprio pure male, perché può essere anche un film minimale girato in una stanza, ma se c'hai i coglioni, c'hai una buona recitazione, una buona trama, può venire fuori comunque qualcosa di buono, no? E invece, secondo me, la spada a tre lame è, cioè, è un trash movie anni 80. Esatto, quello è un trashone. Fatto per fare cassetta, probabilmente, ma trashone. Però io mi sono molto divertito, tutto sommato. Io non mi ricordo. Comunque, ci ascoltiamo questi 3 interventi e ci risentiamo perché ho delle cose da dire. Ciao Simone carissimo e tutta la community di Runtime Radio, sono Kate Arrow di Radio Anziano e mi è stato chiesto di parlare di un film che mi ha fatto veramente cacare e ho pensato a Midsommar. So che questa cosa sicuramente darà fastidio a molti che hanno adorato questa pellicola e perché la critica ne ha parlato bene, perché è lo stesso regista di Hereditary, insomma, perché mi ha fatto schifo? Innanzitutto inizia con questa ragazza molto emotiva che sta con un tizio, veramente un ficaccione, che fa uso di droghe leggere. Lui però non è più innamorato di lei, sembra sul punto di lasciarla, ma non riesce a fare il passo, anche perché lei purtroppo ha avuto delle tragedie familiari, insomma è depressa. E allora lui, non credo egoisticamente, anzi credo magnanimamente, non la lascia, cioè cerca di starle vicino. A un certo punto addirittura se la porta in vacanza insieme a alcuni amici. Un membro di questi loro amici viene da una comunità reclusa fra le montagne ed era tornato così per una festa, invitando tutti, compreso questo Christian e questa Dani, a andare a farsi un mesetto in questa comunità stranissima. Allora questo gruppo parte, lui se la accolla, se la porta dietro, nonostante appunto non la amasse più, lei con tutti i suoi pianistei, bla bla, insomma, arrivano in questo posto sperduto dopo un viaggio lunghissimo e cominciano a drogarsi, perché loro già, vabbè, facevano uso di droghe leggere, ma lì veramente si scatafandravano l'impossibile, tutto è pieno di droga e niente, si sciolgono acidi, fanno cose e arrivano completamente in uno stato di diffusione e sballo totale. E a un certo punto la comunità hippie però comincia a fare delle cose allucinanti, no? Quindi ci sono dei riti violenti, gente che si suicida, sacrifici umani, insomma cose veramente non all'ordine del giorno, che poi puoi immaginare con la droga vengono amplificate. I colori sono belli, sono psichedelici, le inquadrature sono fatte bene, come film è girato bene, ma è proprio la merda del messaggio che passa, secondo me, che mi ha dato fastidio. Io poi posso anche capire che ci sia tutta un'altra chiave di lettura non semplicistica, in cui questa protagonista si è avvicinata a un culto per espiare, trasformare il suo dolore, così anche noi spettatori ci immedesimiamo in lei e ci purifichiamo in una catarsi, prima silenziosa, addolorata, poi con la speranza di salvare anche noi stessi. Però noi spettatori siamo spacciati, non ci meritiamo la pace eterna, mentre invece lei, donna forte, che si sente molto sola, trova la complicità di questa comunità e si realizza se stessa, donna, femmina, all'interno appunto di questa follia. Perché che cos'è questa setta? È un posto in cui le persone che arrivano da fuori vengono blandite, vengono attirate, affascinate, drogate e poi ammazzate. Per cui il fatto che lei si sia salvata perché si è fusa a loro e ha accettato che per insomma combattere la solitudine, il dolore, si debbano ammazzare altre persone così per rinnovare la propria energia vitale, farò la figura del tizio anti-woke, però l'uomo che è cacciatore, no? E quindi arriva lì nella comunità strafatto di droghe, si lascia, scusate sto facendo un po' di spoiler ma li faccio lo stesso, si lascia affascinare da questa ragazza bellissima, giovanissima, in questo rito sessuale in cui però praticamente lo obbligano, no? Tante donne, anche delle vecchie orrende nude, lo obbligano a scoparsela dopo averlo riempito di droghe, e lui si trova un po' attratto ma un po' anche costretto, insomma, a compiere un rapporto sessuale davanti a tutti, davanti a tutte ste vecchie che lo osservano. E però perché lo hanno fatto? Per attirarlo, semplicemente perché volevano il suo seme e poi buttarlo via. Cioè, voi immaginate che l'apice del film, appunto, è proprio questa scena in cui, dopo che il ragazzo, questo Christian, ha tradito la protagonista Dani con la giovinetta sensuale che lo ha attratto davanti a tutte ste vecchie, no? Cosa succede? Che ste vecchie, ste donne nude, abbracciano la protagonista, iniziano a piangere insieme a lei, condividendone il dolore in una specie di simbiosi che la ragazza non aveva mai sperimentato. E quindi è la solidarietà, no? Che dovrebbe essere la solidarietà femminile, il tema anche portante di questa setta di psicopatici, fondamentalmente. Quindi cosa vogliamo dire? Sono io che non capisco un cazzo di cinema, che ci può anche stare, oppure il film è un antipasto della cultura woke estremamente femminista che arriverà qualche anno dopo e che ci perme ancora adesso. Non lo so, vedete voi, è un film che è piaciuto a molte persone, a me sinceramente ha fatto schifo, forse anche perché ero in un periodo in cui mi è stato fatto vedere per forza da una persona che lo adorava e io invece ero lì un po' combattuto. Quando l'ho visto, veramente ho pensato: ma che cazzo sto guardando? Posso capire che per alcuni sia un capolavoro, sia una metafora spirituale, filosofica, a me sinceramente ha soltanto rotto le palle. Sono punti di vista e, per come l'ho percepito io, è una cosa abbastanza squallida. Cioè, non è così che vai a curarti la depressione e il dolore, anzi, vedete voi, insomma, ecco, questo qua era il mio essere Bastian contrario su un film che è piaciuto a molti, ma non a me. Ed eccomi qua anch'io a darvi il mio piccolo contributo su quello che è il mio parere su uno dei film peggiori che mi ha lasciato il segno dentro e che ancora oggi ricordo con grande rammarico. A dire la verità, i film sarebbero tre. Uno non ricordo assolutamente il titolo e tutto, e difatti lo menzionerò qui giusto per vedere se qualcuno ha in mente quale possa essere. L'altro lo menzionerò solo con il titolo, ma ora parliamo del vero film, quello che più mi ha... insomma, quando siamo usciti dal cinema veramente avremmo voluto ammazzare chiunque avesse pensato di fare quel film. Il film in questione si chiamava Alien 2 sulla Terra. Noi ci avevamo creduto, noi quando l'abbiamo visto pensavamo che fosse davvero il sequel di Alien. Quindi ci eravamo già fatti un film in testa, pensando appunto che, tornando indietro, la nostra amica si era portata presso appunto un alien che poi sarebbe arrivato sulla Terra e avrebbe fatto chissà quale cose. E questo film, in realtà, invece avevo, con amara sorpresa, avevo scoperto essere veramente un pacchianissimo film, tra l'altro italiano, realizzato da Ciro Ippolito, non mi ricordavo il nome, l'ho guardato stamattina per curiosità, non sapevo chi fosse il regista. È stato girato sicuramente forse negli Stati Uniti o qualcosa del genere, per cui l'aspetto poteva sembrare anche un po' un film non italiano, però poi in realtà è un film italiano. Una storia che assomiglia al sequel, un viaggio spaziale, astronauti che tornano, che si portano dietro delle uova che poi arrivano sulla Terra e che poi un personaggio, una speleologa sensitiva in questo caso, aveva questa sensazione di qualcosa di brutto che stava succedendo, e durante una visita esplorativa all'interno della grotta scoprirono queste uova di alieni che poi nel film non si vedono, si vedono delle robe rosse, delle specie di lingue, delle cose bruttissime. E come colpiscono, sembra lo straccio pieno di roba rossa che va a finire in faccia della gente, e poi gocciola del rosso che non sembra proprio sangue per niente. Comunque vabbè, effetti speciali veramente dozzinali, film girato proprio con un budget zero, e ci hanno preso per il culo in tantissimi, perché tanti siamo andati a vederlo pensando fosse il Alien 2, quello ufficiale, invece no, era non ufficiale. E di questi film in quel periodo ne sono usciti diversi, ricordo, che fingevano di essere il sequel di un film famoso e invece era una tavanata. Comunque, tristissimo che con finale dove questi alieni arrivano, vabbè, a suon di sgocciolamenti rossi brutti, questi speleologi, che poi erano in 6 o 7, alla fine rimangono solo 2, e riescono a uscire da questa grotta con tante peripezie, evitando questi lumaconi rossi, e riescono a uscire e scoprono un mondo completamente deserto, dove non c'è più nessuno, tutti sono stati assimilati da questi sugoni rossi, tristi. E quindi niente, delusione massima e veramente quasi impensabile che siano riusciti a fare una roba del genere. Comunque sia, a quei tempi queste cose si potevano fare, oggi penso che ti ammazzano appena lo pensi e basta. Secondo film, che vi voglio solo dire il titolo, è La vendetta dei pomodori assassini. È un film che, se vi capita, andatelo a vedere. È un film, vabbè, demenziale in realtà, ma la cosa interessante di questo film e curiosa è che tra gli interpreti c'è un giovanissimo Clooney, quindi è da vedere solo per quello. Quindi Clooney è partito da quello, sappiatelo. E per finire, per chiudere, voglio solo dire questo film che ricordo, ma non ricordo assolutamente il titolo, o era comunque uno di quei film trash bruttissimi fatto negli anni 80, sulla falsa riga di quello che abbiamo già detto, Alien 2, comunque, e ricordo essere un film dove c'era una persona che in qualche modo veniva assimilata da un alieno, e questo alieno però usciva dalla parte bassa, al posto dell'organo riproduttivo, e assomigliava un pochino alla bocca di Alien piccolina, quella che usciva finale, una specie di vermone tutto brutto, ecco. E dava in giro lui a importunare ragazze varie, e poi dopo, quando arrivavano al dunque, lui tirava fuori la sua arma segreta, ed era un film semi horror, ecco, diciamo. Non ricordiamo il nome, però ricordiamo benissimo che quando siamo andati al cinema pensavo davvero di andare a vedere un altro film, cioè la pubblicità, i poster fuori, la trama sembravano essere un tutt'altro film, quindi ci aspettavamo qualcosa di entusiasmante. Era il periodo in cui uscivano tanti bei film di Spielberg e compagnia, questo doveva essere un film che dalla facciata sembrava un film così, quando poi l'abbiamo visto siamo usciti proprio tipo che se passava di lì il regista veniva falciato. Quindi ecco le mie avventure che mi hanno traumatizzato da giovane, e grazie per avermi dato questo piccolo spazio. Saluto a tutti, ciao da Davide Gatti. Ciao Simone, allora, per la richiesta che mi avevi fatto di un film pessimo, spero che questo vada bene. Allora, quello di cui volevo, tra virgolette, parlare è il film del 2017 diretto da Federico Moccia, quindi stiamo parlando di un tizio di 3 metri sopra il cielo, voglio di te, scusa ma ti chiamo amore, eccetera, eccetera, eccetera, che avendo visto quando ero al liceo questi film effettivamente mi avevano disgustato, ma non tanto, mentre nel 2017, che io poi questo film l'ho recuperato, non ricordo dove, mi sembra su Amazon Prime, una cosa del genere, parecchi anni dopo, stiamo parlando intorno al 2020, sì, mi sembra, in pandemia lo vidi, ci rimasi malissimo, nel senso che effettivamente credo sia uno dei punti più bassi di quello che ha fatto Moccia, e quindi sapendo da diciamo che grandi glorie ha fatto, possiamo già capire il target di questo film. La trama è breve, nel senso che questa classe di liceo che appunto va in gita si trova in un posto dove stranamente non, appunto, non prende il campo. Guardate un po' questo titolo, proprio si capisce subito, non prende appunto il campo dei cellulari, e quindi loro si trovano senza social. All'inizio si trovano totalmente spiazzati, fanno le classiche cose in un film di moccia, urlano, braidano, si appiccicano fra di loro, poi guarda caso si rendono conto che stare senza cellulari non è negativa, non è troppo negativa, e quindi iniziano a fare come si faceva nell'Italia degli anni 40, e quindi iniziano a lavorare la terra, a organizzarsi, a diventare amici, il messaggio di fondo effettivamente è non è che traspare, te lo buttano proprio in faccia con a martellate. E non so quale sia la cosa positiva, che ci dobbiamo staccare dai cellulari. Sì, ok, mi trovo d'accordo, perfetto, ma per come lo mette in scena e per le quantitativi strani che in ogni film di moccia ci sono, effettivamente è veramente un filmaccio brutto, brutto, brutto. Proprio fatto in maniera svogliata, cioè si vede che gli hanno dato dei soldi per dire tieni sti soldi, fai sto film perché dobbiamo fare un po' di produzione, tant'è vero che vedo su internet che ha incassato 574.000 euro al cinema, quindi io non so quei pazzi che gli hanno dato dei soldi, ma effettivamente ovviamente il budget non viene dato, proprio perché fa parte credo i classici film con il budget statale. Però ragazzi, veramente proprio brutto, brutto, brutto, brutto, e non lo consiglierei al mio peggior nemico, tant'è vero che nella mia personale classifica dei film che facevo un po' di tempo fa su Instagram gli ho dato un voto di 1 su 10 e quindi me lo sono ricordato proprio perché sono andato a vedere quella lista. E credo sia uno dei, se non il secondo, 1 su 10, comunque quello più brutto e disarmante, perché effettivamente descrive un'Italia che non riesce a fare film belli, un'Italia che ormai è totalmente morta a livello cinematografico, e questa cosa, diciamo, effettivamente più che il messaggio di fondo di quello che vuole passarci moccia. Il problema è, appunto, io ho iniziato a pensare del fatto, mamma mia, come siamo messi male a livello, tra virgolette, filmico e cinematografico, se quello che, diciamo, riusciamo a tirare fuori è questo. Poi vabbè, dopo la pandemia effettivamente è andata un po' meglio, però effettivamente siamo sempre a dei livelli molto molto bassi, e niente, depressione totale. Allora, Davide Gatti ci ha parlato di Alien 2 sulla Terra. Una cosa, allora, è un film che credo di aver visto pure io, ma l'ho visto consapevole che non era il seguito di Alien, cioè perché comunque avevo visto la trama e più o meno ho capito, dipende, insomma. Dipende pure quando, perché magari tu Alien 2 che figo, tutti vanno magari distrattamente, insomma, magari, e invece vai a vedere una cosa, perché si è sempre fatto un po' sta cosa di richiamare i film famosi. Io l'ho visto in televisione, mi ricordo che era estate, arriva al cinema, capito? Era estate, sulla Rai c'era, non mi sembra, il sabato pomeriggio facevano i film trash un po' così, mm-hmm. E io e mio cugino siamo visti questo film, in realtà adesso che ci penso speravamo che fosse qualcosa di attinente con Alien, però siccome che bene o male, diciamo, noi guardavamo i trailer dei film, quindi un po' informati eravamo, e sto Alien 2 non l'avevamo visto, quindi un po' ci puzzava. E perché alla fine, quando è uscito Alien, i trailer se ne parlava di questo film, e invece no, niente, sto film qua zero proprio, quindi l'abbiamo visto, magari Alien, vediamo un po', perché la trama era un po' strana, quindi ma era pure brutto, immagino. Allora, cioè, nel senso, mi ricordo le cose rosse, le luci rosse, però l'ho completamente rimosso pure questo film, perché stava a parlare di 40 anni fa, insomma. No, ma sai, quando lui la racconta alla fine qualcosa mi ha ricordato, quindi evidentemente è capace che l'ho visto anche io, quindi devo andarlo a cercare, perché ovviamente, cioè, tutti e tre i suggerimenti, no, tranne uno, diciamo i due suggerimenti su tre mi hanno messo la curiosità, perché sono film che generalmente non conosco, tipo questo Alien 2 sulla Terra, però magari l'ho visto, quindi lo voglio rivedere per vedere se l'ho visto. Ma il sai film... che però il cervello si difende dai drammi, insomma. Sì, sì, lo so, ci prova quantomeno, ma non sempre. C'è sempre la spada a tre lame che lì si sta difendendo con le unghie e coi denti, però. Ma il film di Samuel. Il film di Samuel, io non ne ho mai sentito parlare. Oddio, qual è il film di Samuel? Midsommar. Ah, Midsommar, sì. Midsommar. L'ho sentito parlare, ne parlano bene in realtà, però lui ne ha parlato male. Lui lo dice che ne parlano bene, che è un cult, che la gente la critica molto positiva, però lui insomma l'ha abbastanza schifato, secondo lui fa un film che fa cagare, ma adesso mi ha messo la curiosità di vederlo e quindi lo vedrò assolutamente, semplicemente perché c'è questa scena delle vecchiacce nude che costringono un tizio sotto droga a trombarsi una tizia con tutte queste vecchie nude intorno. Cioè, secondo me una scena del genere merita una scena del genere, secondo me la trovi anche su YouPorn. Sono abbastanza convinto che ci stanno queste cose, non si sa inventare niente. Adesso dico una cosa che mi farà odiare, perché io ho visto l'altro film Hereditary al cinema, che è un film horror che è fatto anche bene, però purtroppo io non nessuno di due ho mai c'ha sentito. due scene che io sono sbottato a ridere, raga. Che stavo al cinema, sono sbattuto da ridere. C'è una scena di una decapitazione di una bambina. Io sono scoppato da ridere. No. La cosa brutta. Hai rischiato pure di essere linciato. No, non ho rischiato di essere linciato perché c'era anche un altro pezzo di cinema che stava ridendo insieme a me. Ah, ok. Allora, quindi c'è qualcosa che non ha funzionato in quella scena. Che è brutta, però è talmente fatta in maniera che dici: ma che cazzo sto vedendo? E poi c'è un'altra scena in cui c'è la classica cosa delle persone che si muovono, che ne so, arrampicandosi sulle pareti al contrario, sì, queste cose qua. Però c'era questa persona che si muove così velocemente alle spalle che mi ha fatto ridere, perché era ridicolo il movimento che faceva, perché tipo scivolava sulla parete. Io sto sbottato lì insieme ad altre persone sull'uso. Quindi c'è stato queste due scene qua che mi hanno un po' spezzato l'atmosfera, perché non è brutto, cioè è un film che ti fa, non dico il salto di paura, ma ti mette impressione semplicemente con gli schiocchi di lingua. Quindi quindi fa il suo dovere, però ci stanno questi due scivolate, queste due cose che per me è una parte del cinema, certo, non certo. No, vabbè, io un altro film dove ho riso e dove il cinema ha riso, che possiamo considerare un film tra virgolette horror, è stato E venne il giorno. Ah, ok. E venne il giorno ci sono due scene in particolare, un dialogo e una scena che fanno ride, c'è gente che diceva vaffanculo, gente che s'alzata, che tirava le bestemmie. Io sai invece dove ho riso? Un altro film? Hostel. Hostel. Oddio, Hostel, mo ricordo poco, sono andato a vedere al cinema. Hostel, allora, lì mi sono difeso. Io, no, io mi sono visto il film e ho bestemmiato. Allora, c'è stata tutta la prima parte del film che è tipo Natale a Praga. Mamma mia. E poi ci manteneva solo Massimo Boldi col tappo in culo. Era praticamente la trama era quella. Poi a un certo punto c'è stata la scena di tortura e c'è il pezzo dove il tizio, che praticamente il protagonista, viene torturato, gli tagliano un dito, mi sembra. E il torturatore con la sigaretta, che a un certo punto scivola su sto dito camminandoci sopra, cade e si taglia la panza da solo con la motosega. E io lì sono sbottato a ridere. Insieme a me c'era ovviamente anche parte del cinema. Perché è stupido. È stupida come cosa. Poi c'è un'altra scena lì in cui c'è uno dei tizi che riescono a scappare, dei cattivi, se non sbaglio. Che si ritrova praticamente in un bordello di situazioni. A un certo punto sta in mezzo alle strade di Praga, non so dove cazzo sta, si alza in piedi del tipo e si guarda intorno, ma cazzo, sono riuscito a sopravvivere. In quel momento sopraggiunge una macchina e la ciacca. Cioè, questa è una scena comica, ma cioè, non puoi fare un film del genere e ci metti una scena comica del genere. Certo. Cioè, spezzi no. Proprio. Certo. Beh, diciamo che alla fine ci sono delle situazioni che, secondo me, sono messe, non capisci mai se sono messe giuste. Forse perché voleva da un tocco grottesco a tutto quanto. Sbagliato, però, esatto. Me il film, a me non è piaciuto Hostel, per dirti, cioè proprio a livello proprio di dramma. Beh, io non so, in generale non sono un amante, però ricordate sempre, a proposito dei film brutti, la risposta italiana su Hostel. Esatto. Quindi, è una cosa, insomma, che... Infatti ha fatto ridere tantissimo. Ma quelli perché eravamo... Cioè, secondo me da solo non lo finisci quel film. No, assolutamente. Però insieme eravamo, noi l'abbiamo visto pure tu, io l'ho visto pure due volte, ma forse pure tu, no? Perché pure quando è venuto Francesco, insomma, sì, ce lo siamo rivisti perché meritava, insomma. E poi c'è l'ultimo, quello di Giuseppe Pugliese, che parla di un film Moccioso. Vabbè, immagino che abbia fatto schifo, quindi insomma. Ma come, io non ho capito il titolo, però. Manco io, secondo me non l'ha detto. Ma secondo me neanche. Si è scordato di mettere il titolo. Forse l'ha preso un po' nel suo percorso, diciamo, mentale, no? E quindi poi alla fine si è perso, nella digressione si è perso, ma a Giuseppe questo non è una cosa così insolita. Detto questo, allora ci vediamo per la prossima puntata, che potrebbe essere la penultima o l'ultima, poi vediamo, e dobbiamo decidere il film, quindi o ci rivediamo non sono convinto di volerlo fare perché poi dopo te lo ridimenticherai in realtà. Allora il mio cervello, no, ma tu eri entusiasta quando me l'hai fatto vedere, ma no, certo, te lo devi vedere perché era una puttanata. Io mi ricordo che era una puttanata, io sono contento di averlo visto, però io poi dopo cerco di fare un ragionamento. Se il tuo cervello dimentica qualche cosa per due volte, ce deve essere un motivo. Vabbè, ho sempre paura che quei neuroni lì poi vengano inceneriti, vengano distrutti proprio per cancellare qualsiasi tipo. E quindi ho paura che, ma non più me lo rivedo e più divento stupido. Quindi può essere. Io tutto non vorrei correre il rischio. Insomma. Questo rischio. Va bene, dai. Detto questo, vediamo dai quello che succederà nelle prossime due puntate, che sono quelle conclusive. Ci ragioniamo un pochino e poi ci sarà anche un'altra puntata con altri interventi, perché me ne stanno arrivando, e poi chiudiamo e ce ne andiamo in ferie. Grazie a tutti per averci ascoltato. Stavamo in ferie noi. Sì, stiamo in ferie, ma andiamo in ferie di nuovo. Andiamo in ferie ancora di più. In ferie dalle ferie. Esatto. Siamo in ferie dalle ferie. Esatto. Grazie Marco Gualdi, grazie a tutti quelli che ovviamente ci ascoltano e fanno le donazioni a rantameradio.it, e buon proseguimento, e fateci sapere se magari anche per l'inverno, insomma, volete che noi si veda dei film brutti che magari ci siamo persi e che voi sapete. Anzi, raccontate, non so se tu sei d'accordo, ma tra di mandarci dei racconti di film horror. No, di film horror brutti proprio, che dovevano fare impressioni, che film, a un certo punto vanno fatto ride. Okay, che ci sono dei pezzi che dice, ma perché mi fa ridere sto film? A proposito di cose brutte, tra l'altro, sono d'accordo, quindi mandateci storie di film horror che vanno fatto ride. Cioè, proprio più che vanno fatto ride, cioè che magari non è neanche del regista, cioè non è che se ce le raccontate scary movie, è chiaro, no? Cioè, nel senso, deve essere un film serio che era horror con tutte le intenzioni, ma che a voi per qualche ragione va fatto ridere. E chiudendo, dico anche che, parlando di cose brutte, proprio oggi mi sono visto un'ora di video su YouTube dove c'è il collage di tutte le puntate della telenovela piemontese, e devo dire che me lo ricordavo che era una merda, ma poi quando si baciano lui ci mette la lingua, è bellissimo. Che cosa, vabbè, quello, come abbiamo detto, abbiamo scoperto, insomma, è una cosa fatta appositamente per Mai Dire TV, quindi. Però noi per anni abbiamo pensato che fosse vera questa. Sì. Va bene, dai, detto questo, ciao ciao a tutti e state bene. Ciao.